Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare. Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Io invece sai, pensavo che secondo me la birra e ognuno porta un suo argomento, cioè una sua tematica. Arriva l'acqua. Posso tra sumisione no buona. No, lo vedrete cosa succederà tra 18 mesi. Salvateli tutti. A stronzo! Pop Corner. Vedi, eccoci qua un'altra volta, siamo ritornati finalmente dopo tantissimo tempo. Benvenuti a Pop Corner, la trasmissione pop di critica sociale qui di Runtime Radio. Passiamo a questa bellissima base che ci piace molto, però insomma, cazzo quanto è invadente. Con me c'è Walter Sbano. E allora buonasera, visto che di critica sociale è la prima critica, ma perché non avete rotto il cazzo di mercoledì sera? C'è ragione, perché abbiamo deciso mercoledì sera. Se lei vuole proporre un altro giorno, si può fare un altro giorno. Anche ci saranno altre puntate, pensi. Facciamo il mercoledì mai. Mercoledì mai. Marco Gualdi. Buonasera, bella la base, mi piace così tanto che quasi quasi. No, la richiesta è l'abbassiamo un po'. No, ma adesso finisce. Questa è la base post sigla, ragazzi, dove dobbiamo essere tutti pimpanti. Ma ci sta uccidendo. Ma l'hai fatta con l'intelligenza artificiale? No, questa è roba vecchi asset che c'avevamo. Vabbè, ok. La faccio io. La padrona di casa, Michela De Paola. Buonasera a tutti, se sopravvivo a... e soprattutto se i miei timpani sopravvivono. Oh, ecco, siete contenti? E massa che stronzi che io siete. Questa non bene. Però questa non è molto pop. Ma non è vero. Questa è più elettronica. Questa sta lì. Provate a farti abbassare il volume del. Va bene. Non c'era nessuno del tuo. Va bene, va bene. In attesa di Puccio, il cane è morto. Nel frattempo, in attesa di Puccio, che non sappiamo. Non sappiamo. Ah, le due frasi sono scollegate. Non è in attesa di Puccio, il cane è morto, riferendosi a Puccio. No, assolutamente no. Noi portiamo rispetto al cane di Puccio. E che non sappiamo appunto se partecipa, ha avuto. Ma il cane di Puccio è un po' come il cane di Pavlov. Come Paolo, il cane? Di Pavlov. Pavlov era quello che ha dimostrato il riflesso pavloviano. Quello che quando bavava quando vedeva le donne nude. Quelli siamo noi. Vabbè, anche quello riflesso. Qui siamo noi alla 16ª puntata di Lost, naturalmente. Che dobbiamo ricordare essere insomma un momento. Ci sono le donne nude in Lost. Incredibile. Sì, ci sono state. Puntata, sì. No, se vuoi lo raccontiamo anche a te questa storia. Ma io l'ho visto Lost, ma l'ho rimosso. Ma c'era la 16ª puntata. No, la 16ª puntata dell'ultima stagione, anzi, della penultima stagione. C'era venuto il dubbio che c'era qualcosa che non andava in questa 16ª puntata, perché ci risultava che le puntate... Immagino che non l'aveste vista su Rai 2, comunque ho capito l'andazzo. Esatto. E quindi, insomma, è partita questa cosa con... Già la prima scritta avevamo capito che c'era qualcosa che non andava, però abbiamo voluto indugiare, perché sai, a volte si indugia un pochino. Certo punto... ricordavi bene al fine della puntata precedente. Esatto, perché erano settimanali. Bravo. Poi se la mancavi erano cazzo. Bravo, aspettavi praticamente il recap della puntata precedente e invece esce poi una... Dulcine così appoggiata a un vetro smerigliato. Lost è quella in cui c'è Rocco Sawyer, giusto? Esatto. Sì, Rock Sawyer. Sì, Rocco Sawyer, ok, ho capito. Rocco Sawyer, perché Rocco? Rocco Sawyer. Vabbè. Ah, che fatica vivere, Simone, lascia stare. Io tutte questa cultura pop non ce l'ho. Sei formata dopo Moana. Rocco, come non sai la cultura pop? Dopo Moana. Ma sì, ho capito Rocco, ma che c'entra con Sawyer? Rocco è questo. Sawyer è il personaggio, il figone di Lost. Sì, vabbè, è uno dei due figoni. Però non è che sapevamo se c'aveva 33 centimetri di cazzo. Insomma, questo volevo dire. Non sto dicendo che Sawyer originale c'aveva nerchia tanta. Sto dicendo che siccome tu hai scaricato la versione porno, c'era Rocco che faceva Rocco. Sawyer. Non l'abbiamo visto quello, non l'abbiamo visto perché... E quindi a un certo punto ci ha preso in imbarazzo e abbiamo detto vabbè, forse è meglio. Non è imbarazzo, è che in realtà ste zitte coprivano il 90% dello schermo, quindi non si riusciva a vedere bene di dietro. E quindi c'era di dietro, perché qualcuno dietro c'era sicuramente. C'era sicuramente. C'è sempre qualcuno dietro. Era Benjamin Linus che è sempre dietro a tutto, ricordiamo. Esatto. Infatti abbiamo pensato, però questo Ben gli era morto. Tutto sommato a Lost gli mancava la deriva erotica, diciamo così, insomma. Comunque salutiamo l'unico ascoltatore questa sera. Che mestizia, uno pochi ma buoni. Esatto, c'è Jimmy. Ciao Mr. Zero. Tra l'altro ho visto la foto di Jimmy. Zero. Pure lui un po' narco, secondo me. Un po' narcos. Però insomma io gli voglio tanto bene a Jimmy, perché non solo è tantissimo giovane, ma addirittura c'ha la pazienza di ascoltarci. E come Marco ogni tanto ci troviamo lì, insomma, dalla parte a bere una birra e ci domandiamo: ma chi lo fa? Esatto, ma chi glielo fa fare? Chi lo fa fare? Me lo sono sempre domandato. Ci domandiamo tutti. Come in realtà chi ve lo fa fare? Tutti gli altri, perché... ma soprattutto noi che stiamo qua. Esatto. Infatti, gli altri ci hanno preso in parola. Parola, hanno detto: ma vabbè, siamo entrati un po' a gamba tesa, c'è da dire. Sì, non tanto che non partecipiamo. Sì, l'abbiamo detto all'ultimo. All'ultimo. Non abbiamo creato hype. Hype. Tra l'altro, per creare hype, vi dico che la prossima settimana, poi ci decidiamo, faremo la stessa cosa che facciamo stasera, solo che con le serie TV. Forse riesce meglio, perché ho visto che i film non hanno riscosso un grande successo. Ah, ti spiego qual è il punto, perché ci ho riflettuto tanto. Ci sono addirittura 3 ascoltatori. Il problema qual è? Il problema è che nel 2024 abbiamo pagato il conto dello sciopero degli sceneggiatori, che praticamente ha imperversato ad Hollywood tutto il 2023. Quindi quello che è uscito nel 2024, che comunque non erano poche cose, perché le cose uscite, il problema è che erano tutte debolucce, non te ne è rimasta impressa nessuna. Io sono andato a vedere le liste di visione di tutte le piattaforme per ricordarmi, sì, ma io che cazzo ho visto? E ho scoperto che de roba non ne ho vista poca. Al cinema solo 3 però film. Però non mi ricordo niente. E ci arriviamo dopo a quelli che ho visto al cinema. Però di tutto quello che ho visto, ma non mi rimasto impresso. Io ce l'ho 2 sicure. Però di 2 sicuri ce l'ho. Io ero uno che prima della pandemia al cinema ci andava, non ti dico una volta a settimana, ma poco ci manca. Adesso ci vado 2 volte all'anno. Comunque è una differenza enorme. Più o meno lo stesso, però tu considera che io uno dei 2 l'ho recuperato adesso andando su Amazon Prime, andando nella cronologia, perché non mi ricordavo neanche il titolo. Insomma, ma c'era Rocco? No, qualche Rocco ci sta, però no, ce n'è uno ancora prima, quello che avevo visto prima, che l'ho visto, ma non ho memoria di... Vedi, ma guarda, la maggior parte dei film che abbiamo visto nel 2024, poi la cosa, cioè... No, la cosa non l'ho vista. Ci ha colpito. Quella l'ho vista già un sacco di tempo fa. Ma vabbè, no, però dico, questo fenomeno di oblio della mente ci ha colpito tutti. Non è solo, cioè... Ma è arteriosclerosi, semplicemente. Anche, sì, è vero, ormai comunque siamo... Ci abbiamo più di 30 anni. Sai perché? Perché tu quando hai visto il film ti è piaciuto così tanto, hai detto oblio! E lì... Obey. E quindi, gente, insomma, quindi questa sera racconteremo i 3 film che ci hanno particolarmente colpito, come stiamo giustamente dicendo. Come direbbe nel 2000. Greg, colpisci, come Lillo, colpisci. Piscido. Nel 2024, che tra l'altro, piscido, non nel 2024, nel senso che il film può anche essere di qualsiasi anno, che però noi abbiamo visto nell'arco dell'anno 2024, che è testé trascorso. Tra l'altro, se c'è qualcuno su Dirette Runtime che vuole partecipare, ci vuole dire quali sono i film che lo hanno particolarmente colpito, noi poi li leggiamo. E da chi iniziamo? Iniziamo da Michela, che Michela ha visto le cose strappacore, quindi... prima che l'unico pochi ascoltatori che ci stanno se ne vanno, insomma, distruggili tutti, Michela. Distruggo tutti con un bellissimo Gloria, che è un Puzzi film di cicoria, che è un film più o meno indipendente, di Margherita Vicario come regista. Ah, bello, quello l'ho visto pure io, sì, è vero. Sì, l'abbiamo visto. Io l'ho visto in realtà 2 volte, perché poi sono andata una volta sperando di incontrare la regista, ma la regista non è venuta a Monte Rotondo. Comunque, è come darle torto. Perché ci aveva avuto un lutto. Poi dopo quando l'hanno premiata. Perché ha avuto proprio un bel lutto. Sì. Maestra è morta nonna. L'hanno premiata perché ha avuto un bel lutto. È morta nonna, quante nonne c'hai? Il film è molto bello, ovviamente. Carino. È ambientato nel 700 e racconta la storia di queste ragazze che vivono praticamente in un convento del 700, ragazze quasi tutte comunque provenienti da famiglie disagiate o comunque orfane, e parcheggiate lì per diventare, probabilmente destinate a diventare suore, che si date in maritaggio o date in maritaggio a vecchi bavosi. Vecchi bavosi, che in qualche modo si impossessano del del coro nell'ultima, diciamo così, nella giornata più importante, quella dedicata al Papa. Partiamo subito con lo spoiler, sì. Incredibile. Cioè, sei riuscita in 3 secondi a parlare invece della storia, deve fare subito lo spoiler. Così la storia è quella. Tu aspetta che arriva il turno di Marco, che te racconta un film di 1 ora e mezza in 2 e vedemo. Infatti, io almeno ho avuto il dono della sintesi. Però se posso. Però film molto bello. Con una musica veramente. Con la musica veramente. Beh, d'altronde la colonna sonora l'ha fatta la Margherita Vicario. È proprio fatto per carino, la musica, quel film veramente bello. Una fotografia stupenda. Girato. Però non credo che nella colonna sonora di quel film c'entri Margherita Vicario, perché non è proprio il suo tipo di musica. Sì, sì, no, ha fatto tutto lei. Ma in realtà se senti il coro è un po' roba sua. Lei è pop, però a parte che lei è c'è una formazione classica, sì. Infatti molte volte fa riferimento proprio alla musica classica, ma poi in generale comunque il tipo di cori, il tipo di melodia che utilizza è proprio mandocori. Dogori, esatto. Non Dogori. O Cori. Cori. Poi di Paolo Rossi e di Elio. Elio non lo sapevo. Paolo Rossi non lo sapevo. Sì. Altro spoiler. Niente, Michele. Oh, stasera 4 parole, 5 spoiler. Però vedi, non l'avrei mai detto. Già uno così. Vabbè, gioca a pallone a un certo punto è diventato. Ma era già morto Paolo Rossi. Ha fatto un'intelligenza artificiale. Ok. Si chiama Paolo Rossi. Sì, sì. Paolo Rossi era anche un calciatore, però. Poi neanche era troppo ubriaco. Insomma. Strano, perché ultimamente ormai disintossicato un po' la fine. Oddio, l'ho visto a propaganda qualche mese fa, tanto disintossicato non mi è sembrato. Visto di peggio. No, io ti devo dire la verità, che secondo me Paolo Rossi oggi è talmente incarcitrato in quel modo di parlare, di stracinarsi, che non lo capisci più se è ubriaco o se è sobrio. Quindi esatto. Sì, ha fatto la fine di Tonino a colla. Esatto. Che s'accolla, uno che s'accolla non proprio, s'accolla più, sì. Però in realtà sapete s'accollava. Sai, c'aveva debiti in tutti i bar intorno alle società di doppiaggio. Ne hanno parlato male tutti, a parte il periodo in cui è morto, però insomma, a parte che pure come direttore di doppiaggio fosse un bel pezzo di merda, insomma. Questo non lo so, però ne ho sentito parlare diverse, però non possiamo dire. Ma abbiamo detto. Dice più di così che vuoi aggiungere. Comunque, Michela. Tizio, okay. E comunque, bel film che vi. Carino, veramente, sì. Che vi consiglio. È emozionante anche, devo dire, tutto sommato. Ha girato bene. Sì, io non so poi quanto sia la sua formazione o se abbia avuto comunque assistenza tecnica. Diciamo che la storia è di queste ragazze orfane che vengono ovviamente tenute in questa specie di convento, gestite insomma dalla chiesa, in una società molto formale, formalizzata, e c'è un evento, quindi questa situazione, questa ragazza in particolare che rompe gli schemi e porta insomma. Sì, ma posso dire una cosa? Mannaggia al patriarcato, lo fai a Michela? Cioè, era il film suo. No, no, è che anch'io l'ho visto, volevo partecipare. Ah, okay. Ho organizzato l'informazione, poi lei ci dice la sua opinione. Insomma, okay. Che cosa devo dire? Oh cazzo, da più dire il cazzo, l'ho detto come finisce. Ma adesso poi Michela commenterà il film che ho visto io, che non lei non ha visto. Che è Gloria. Però avresti potuto vedere, c'erano certi cazzi a un certo punto. No, quella era Gloria Holla. Ti stai confuso col Gloria. Ma anche Febbre da Cavallo. Non c'ha parole. Comunque sì, hai detto tutto tu. E quindi viva il patriarcato, insomma. Beh, comunque Falca del patriarcato, ma non manco tanto. Scusami, ma il patriarcato mi ci ha fatto capire qualche cosa, però. Perché prima ho solo capito che il Papa l'ha preso in culo e basta. E quello è stato l'effetto del patriarcato. D'altra parte, il Papa prima d'essere tale è stato vescovo, parroco, chierichetto. Chierichetto va bene, ma c'è tutta una carriera dietro. Esattamente dietro. Attenzione, che c'è comunque una cosa. Quindi, fare il chierichetto è un po' come usare la droga, usare le canne. Certo. Quindi per pescare si diventa, si sale. Okay. Comunque, Michela, io ti ricordo lo schema. Sì. Per di cane trovo cane, non stiro camice. Esatto. Sì. Cioè la maglietta hit del 2023. Esatto. Maglietta, assolutamente. Sì. Vabbè, insomma, comunque, quindi da vedere, adesso uscirà in piattaforma, perché mi sa più che o meno è uscito. Allora, siccome ha avuto un grande successo all'estero, nel senso che ha spopolato in Francia, in Germania, in Spagna, in America, ha vinto un sacco di premi, tipo in Giappone. Vabbè, tranne che in Italia, perché siamo delle teste di cazzo, eccetera. Sì. anche in Italia, però diciamo che, dai, che Italia, nel mondo ha spopolato, e probabilmente ci vorrà ancora un po' prima di vederlo nelle piattaforme. Però uscirà sicuramente su Prime, credo, su Rai Play, perché le produzioni mi sembrano che siano Rai, Amazon, eccetera. Ah, non lo so, vabbè, allora aspettiamo con ansia, perché sì, davvero. Tanto in chat ci dicono che Gualdi è molto informato sulle categorie hot. Sì, Gualdi assolutamente. Gualdi è quello che crea le categorie su Pornhub, è proprio, esatto, il suo lavoro. Lui lo pagano per questo, per creare le sottocategorie. Faccio anche il titolista a volte. Titolista, esatto. Lui crea anche le retrocategorie, che è divertentissimo anche quella. Le retrocategorie sono divertentissime. Va bene, comunque, tra l'altro c'è questo contrasto tra musica classica e musica, tra virgolette, moderna, no? Questa rottura che a un certo punto c'è nel film, è molto carina. Sì, belli anche i personaggi, devo dire. In una delle scene iniziali in cui comunque si sente veramente il ritmo che si confonde con, bello, la vita quotidiana. Sì, musicalmente molto curato, è veramente, si vede che è un film fatto da una musicista, sì, insomma. Sì. Ma lei, secondo me, oltre che musicista, è sicuramente, si vede anche che è figlia d'arte e che quindi ha gli strumenti anche visuali per rendere. Ah, è raccomandata. Cioè, per rendere comunque l'immagine. Beh, quello tanti sono raccomandati. Sì, ma sì, comunque, cioè, voglio dire, lei nelle canzoni un po' lo fa capire sta cosa. Anche perché lei comunque lavora da tanto tempo anche nel cinema, oltre che nella musica. Sì, sì. È attrice, faceva qualcosa con i Cesaroni, poi ha lavorato in televisione, cinema, sa, eccetera. Sa sempre eccetera. Mezzo, insomma. Sì, quindi comunque c'ha sicuramente il suo giro e l'ha saputo sfruttare e secondo me ha fatto bene. Voto 10. No, tu sei sempre esagerata, cioè, che cazzo, 10 è oggettiva, 10. Ma 10 è il capolavoro della cinematografia. Guarda, lo sai cosa ti fa di 10? Io l'ho rivisto due volte. Io Indiana Jones l'ho visto decine di volte e non gli do 10, cioè, capito? Ma a me è piaciuto tantissimo, sì, però, io do 10. Va bene, fate finta che non ha detto niente. Ma perché? Cioè, classifica. È poco, cioè, è poco come multiplayer. 10, via, così. Dai. No, no, non c'è la classifica, però 10. 10. Vabbè, Gualdi. Io ho visto 10. Visto, allora. No, aspetta, Michele, hai finito? Devi. Non ti preoccupi se devo parlare. No. Ho detto 10. A parte il voto, se volevi aggiungi altro. C'era un altro film che avrei voluto. Dopo. No, ma tanto lo dirà Marco, quindi lo racconterà. Insomma, facciamo uno per uno. Infatti, vai Marco, racconta il film. Marco, dillo dopo. Che mi hai rubato. Sì, certo. Uno lo dice per prima e poi ruba. Allora, io è un po' come Trump, però ne parliamo di Trump un pochino, perché secondo me è una bella... Dopo ne parliamo. E allora, quest'anno ho in bilico però con 2023, però in realtà... Vabbè, sti cazzi, guarda, gennaio 2024. Abbiamo visto, abbiamo visto, perché proprio è uscito proprio il primo mese di gennaio in Italia, ed è Povere Creature. Beh, comunque è un film interessantissimo, dai. Molto particolare, molto anche registicamente, surreale, sicuramente grottesco, è un racconto di femmini, anche scopesco, pure un po' molto scopesco, in effetti. Mi ricordavo, dice, è la quindicesima puntata di Lost, esatto. C'aveva qualche cosa, però lì più a fondo, sì, però diciamo che in Povere Creature è un po' più di sé, diciamo così, quindi anche quel tipo di POV era differente. E no, comunque un racconto di femminilità, di crescita, di trasformazione, di grottitudine. È un film molto molto particolare, con un bravissimo William Dafoe, una grande Emma Stone. No, scusa, William Dafoe. Era truccato. Ricordiamoci che poi lui si chiama Willem, è vero, ha ragione Michela. Quando è truccato non è più Dafoe. Ah, è vero, è vero. Quindi si chiama Dafoe. E quando è normale che è Dafoe. Quando è normale è default. Okay. E Mark Ruffalo che fa il povero difficile. Grande Mark Ruffalo. William Dafoe quando è truccato è William Broken. Questo è una battuta finanziario. Un po' il genere. Ah, The Old Broken. No. Comunque è un film che consigliamo, non vi dico il finale. Comunque un finale grottesco. La bambina muore. La bambina muore assolutamente. mi vuole sempre. Se, se siete affezionati alle papere, non lo guardate. No, perché le papere vi vivono per sempre. Non muoiono mai le papere. Ma non è che solo le papere, c'è cioè anche il porco cane. Che era? Non dire. Stai attento a quello che dico. Attenzione. Diciamo che ci sono degli ibridi, ecco, esatto, delle chimere. Cioè, delle il maiale col triangolo in testa. Anubi c'è? È una chimera? Anubi c'è? È una chimera, Anubi? Sì, ma è una chimera tecnicamente. Boh. E allora c'è? No, Anubi allora non è una chimera. E com'è una chimera? Anubi non è quello là del corpo umano, quello testa cane, di cazzo. L'uomo cane. Vabbè, diciamo che il film è interessante su 50.000 strati, al di là della narrazione, il significato, il senso che gli vogliono dare, ma soprattutto registicamente, visivamente, fotograficamente, insomma, veramente è una bella opera. Era tanto che non vedevamo un film che dicevi, cazzo, questa è cinema, insomma, quindi Marco, che voto gli dai? Guarda, io l'ho visto una volta sola, quindi devo dargli 5, perché seguendo il... Lo devi vedere due volte. Bisogna vederlo due volte. No, gli do un bel 8. Dai, beh, sì, dai. Bell'otto, dai. Michela? Io gli do un 9. No, anche se vuoi. Sì, un 9 ci può stare, dai. Dopo che hai dato 10 a Margherita Vicario. Ma vuoi anche commentare? Il film? Vuoi anche dire perché 9 e non 10? Allora, gli do 9 e non 10. Vabbè, perché 9, insomma, è un bel voto alto. Voto, dai. Certo, un piccolo capolavoro rispetto a un... È un piccolo capolavoro, e secondo me lei... Ha vinto anche qualche premio Oscar. Secondo me lei è bravissima. Emma Stone, credo, Emma Stone abbia vinto l'Oscar. Stupenda. Sì, sì. È veramente stupenda. Ma vuoi mettere con Emma Vicari, Vabbè, poi c'è tutto un discorso su l'emancipazione femminile, che in qualche modo, insomma, tutta una serie di metafore raccolte in questo film, che è complicato fare un discorso così con Marco vicino, quindi non lo farò, però devo dire che secondo me è un grande film e anche un grande omaggio a Frankenstein stesso, perché ovviamente è un omaggio a Mary Shelley e a Frankenstein. Frankenstein Junior, no, però è vero, cioè, c'è sta come Mary Shelley al romanzo più che al film, forse anche al film, però soprattutto al romanzo. Quale film? Frankenstein Junior. Ah, Junior. Vabbè, ma Frankenstein Junior è un film che è una commedia, che c'entra? Beh, anche questo un po'. A volte è con me. Sì, vabbè. In qualche modo. La richiama, no? Anche la governante, il governante, che era uomo, vero? Mi ricordo se no, era donna, no, era donna. No, donna. E quindi c'è qualche richiamo, però sicuramente c'è molto più riferimento alla letteratura, quindi molto riferimento, un grande riferimento a... anche a Frankenstein, a Mary Shelley, e mi sembra che avevo visto qualche altro riferimento, ma adesso non mi ricordo. Vabbè, è passato già un po' di tempo. Sì. Ma secondo me è un film che resterà nella storia. Beh, un bel film. Tu, Sbano, l'hai visto? No, veramente no, perché mi dimentico sempre di recuperarlo, però è da vedere, è da vedere. Da vedere, al cinema secondo me faceva il suo, però penso che insomma anche un buon televisore si veda bene, che veramente visivamente merita di essere visto. A te. Allora, visto che tu dici merita il cinema anche con un buon televisore, faccio proprio un excursus. Se tu vai al cinema esatto. No, sarebbe figo, sotto braccio, no, perché sono, è come sai, io dormo solo col mio cuscino. C'è gente che guarda il film solo col suo televisore. Scusi, lei che non mi rompete il cazzo, esatto. Scusa. No, quello che volevo dire, al cinema nel 2024 ho visto solo 3 film. E questo già è qualcosa. Che sono Dune parte seconda. Già che ti ricordi. E poi ne parliamo di Dune. Esatto. Però no, adesso ti dico perché lo accennavo. Deadpool e Wolverine, che per carità divertente, ma inutile aggiungere altro. E il terzo che avevo detto, che adesso mi sono ridimenticato. Alien Romulus. Che, vabbè, insomma, anche lì carino, ma niente di più. La cosa invece che volevo dire è, che riguarda Dune parte seconda. Come tutti i film di Villeneuve, è uno di quei film che non è un pilota. Ricordiamo Gilles Villeneuve. Sì, esatto, non Jacques, ma Gilles. Che come tutti i film di Denis Villeneuve, c'ha la sua, secondo me, componente più potente nel sonoro. nella colonna sonora, ma soprattutto negli effetti sonori. Quindi uno di quei film che nel sound design, nel sound design, esatto, che se non lo vai ad ascoltare, a godere in una sala cinematografica anche di buona qualità, perdi metà del film. Sono d'accordo. Ma un po' anche come, se ci pensate, anche Blade Runner, anche come i film di Nolan, che sono un cinema che sono 5 in tutto il mondo, che hanno l'impianto esattamente come vuole lui, te perdi 50% a volte. Ma quello dell'immagine, perché usa un formato di pellicola un po' estremo. No, pure il suono, pure il suono. Sì, però è diverso. Allora, è mitigato, però è diverso, in Italia è mitigato perché col doppiaggio un po' si recupera. Ma tanti pezzi, tante scene di film in originale certe volte è proprio difficile seguirlo. Vabbè, sì, comunque sono tendenzialmente sono settati per determinati setting audio che non tutti i cinema hanno. Il che tra l'altro è anche sbagliato, perché tu comunque lo fai per quel formato e poi comunque devi fare anche delle versioni che siano però compatibili. Su queste cose è molto. Però io sono d'accordo con quello che dice Walter, perché secondo me l'impatto audio che c'ha Dune parte prima e parte seconda sono clamorosi. Poi anche dal punto di vista visivo e fotografico sono bellissimi, e però per me rifinisce là, cioè nel senso io sono uscito dal cinema, ho visto Dune parte 2, non ho molto a dire. È maestoso come film, non sono però appassionato. Poi, allora, neanche io sono un fan della saga, anche se poi magari poi la prossima settimana con Marco parleremo poi della serie televisiva, che secondo me da quel punto di vista merita. Però ecco, tu esci dal film, dal cinema, e sei contento da una parte perché hai visto veramente qualcosa de bello e sentito qualcosa de bello, però poi alla fine che cazzo mi hai raccontato? Cioè è un po' questa, cioè perché tutta la parte storica, sociologica, il tribale, è tutto così accennato che poi alla fine non mi dice niente. Non so Marco e Michela se sono d'accordo. Diciamo che più che altro è accennato fino a un certo punto, perché in realtà quello serve per farti capire come la manipolazione di determinate persone possono far trasformare un popolo in un esercito spietato, oppure come possa la manipolazione creare dei falsi miti. In questo caso c'è il profeta che è stato letteralmente costruito per essere un profeta e far diventare sta manica di babavi degli invasati pronti al martirio, insomma. Quindi ricorda tante storie. Il fatto che loro ricordano le popolazioni araba è del tutto casuale, tra l'altro, non è assolutamente stata. No, vabbè, ma ci può sta anche. Cioè. Ma secondo me un po' ci sta. No, ma ci sta sì. Ma soprattutto. No, ma guarda, non l'avrei mai capito. Ma soprattutto non è un problema. Cioè, nel senso, se tu hai voluto prendere ispirazione da quel tipo di approccio, va più che bene, secondo me. Lisa al Gaib. Sì, beh, è chiaro che all'epoca ci saranno ispirati a queste contaminazioni, anche perché il pianeta desertico, Dune, che cos'è altro se non il deserto? Chi è che prende a cazzotti il tavolino? Scusate. Marco, è Marco che batte i pugni? Cerca di state fermo. Batte le manine che viene papà, che sta a fa? Facciamo una cosa, scriviamo il nostro isolamento. Scusa, ma no, cerca di non muovere le mani. Bello è che ha pensato che mettendo tra la staffa del microfono e la scrivania una bolletta avesse un isolamento. Vibra un po' di meno, capito? E anche provato per confutare, insomma, la sua tesi. Vabbè, comunque, prego, Walter. No, vabbè, questo, insomma, volevo fare questo preambolo, però in realtà non racconto nessuno dei tre, perché secondo me nessuno merita in particolare. Però daglielo comunque un voto a Dune, dai. No, il voto a Dune da non appassionato è alto, un 8 pieno io lo do sicuramente. No, vabbè, visivamente è un è un filmone, anche audio, è un filmone, io 7 comunque gli darei. Anche perché ci stanno poi vabbè, secondo me la storia, cioè, è soprattutto incentrata su lui che sale sulle dune e guarda il tramonto. Ma quello è Dune è quello, Dune. Ma il libro. Quindi comunque quello, cioè, voglio dire, altrimenti si chiamava altre Madib cose, quello fa, cioè, non è che si chiamava altre cose il film, cioè lui va in giro e fa altre cose. Tra l'altro io mi soffermerei sulla bellissima storia d'amore di due che si promettono eternità e lui si sposa. Spoiler il finale. Vabbè, ma tanto poi lei si mette con l'uomo ragno. Ma lui già stava con l'uomo ragno. Che problema c'è? Spider-Man. Vabbè. From the neighbor Spider-Man. Prego, Walter. No, vabbè, allora io in realtà dicevo appunto Dune. saltiamo questi. Allora, sono andato a vedere la lista delle cose che ho visto sulle piattaforme. Sei rimasto sconvolto. Molti non me li dico, cioè, di Madonna, se non l'avessi... monnezza, ma allora non è nemmeno monnezza, però perché se non ricordi, avessi letto quella lista, nessuno mi è rimasto sufficientemente impresso da dire: ah già, avevo visto questo. Però ho trovato... già l'ho visto l'anno scorso. Allora, ho trovato un film in mente che l'hai visto 5 anni fa. Un film che ho visto gli ultimi giorni del 2024, che mi è venuto voglia di raccontarvi. Non riesco a inquadrarlo. Il film non è sto capolavoro, però parte da un presupposto talmente assurdo. È un film drammatico, si chiama Dall'alto di una fredda torre. Madonna. È un film drammatico italiano. Perché mi dici Madonna, lo conosci? No, però il titolo mette... È tratto da una sceneggiatura teatrale. Ok. Allora, la storia parte così, vi dico come comincia. Ci sono una coppia di persone in uno studio di due medici che ricevono una diagnosi. E tu dici, vabbè, saranno una coppia. E quelli di cui stanno parlando sono i figli, ok? Perché sembra così all'inizio. Poi dopo pochi dialoghi ti rendi conto di due cose, una più assurda dell'altra. La premessa... Ah, sì, ho capito, ho visto il trailer. La premessa... Lo volevo vedere io quel film. Cercherò di non... Vabbè, ecco, c'è bravo, lo spoilerà. Però vabbè, la questione... Cioè, perché se, si gioca tutto su un... Il film è tutto giocato su un contrasto, su un dover prendere una decisione, quindi... Sì, sì, ho capito. Miguel, avevamo visto il trailer, pure a te ti aveva colpito. La questione è... Dice, però guarda, no, perché sia l'uno che l'altro, cioè due persone che hanno la diagnosi della stessa malattia, di una io non so se questa malattia se la sono inventata per la trama, sinceramente non sono andato a cercare. Vabbè. Però pare che sia questa malattia genetica rarissima, che sembra sia asintomatica fino a quando poi non ti viene e te devi sbrigare a ricevere una terapia che si gestisce con l'infusione di adamantio nelle ossa, no, di come si chiama, midollo spinale. Ok, okay? Tipo una leucemia. Non è una leucemia, una, però vabbè, ma anche se fosse inventata è funzionale, allora, alla trama. Esatto. Allora tu dici, oh che cavolo, ma saranno i figli, perché cominciano a parlare a questi. Allora subito scopri due cose. Uno, che essere malati della stessa malattia, già una malattia rarissima, sono entrambi i genitori di queste due persone con cui stiamo interagendo sulla scena, che non sono marito e moglie, ma sono gemelli eterozigoti. Quindi, i genitori di questi due ragazzi, di questi due uomini, di questa donna e quest'uomo, sì, quarantenni, sì, hanno avuto la diagnosi della stessa malattia. E già questo è statisticamente assurdo. Però dice, non ci sarebbe problema, perché con l'infusione del liquido spinale dai figli si può curare il genitore. Solo che c'è un problema. Lo stesso una estrazione di liquido spinale è sufficiente per curare la patologia a uno solo dei due genitori. Questa terapia va affrontata entro 15 giorni, perché sennò questi che non hanno nessun sintomo muoiono. E devono fare la scelta. E devono scegliere, aspetta, perché devono scegliere? Perché uno dei due gemelli in realtà ha un difetto a un cromosoma, per cui non è diciamo eleggibile come donatore. Quindi il maschio è tagliato fuori. La coppia di dottori quindi sostanzialmente dice alla sorella: possiamo osservare uno solo dei due genitori, decidi quale. Ma sapete qual è la cosa assurda di tutto questo film? Che i genitori, che sono due persone assolutamente normodotate, assolutamente autonome, autosufficienti, che non presentano sintomi eccetera, di questo non sanno un cazzo, perché la diagnosi l'hanno raccolta i figli, a parlare con i medici sono i figli. I genitori, i malati della questione, non sono stati avvertiti della loro patologia dai medici, della diagnosi dai medici, e i medici chiedono ai figli di scegliere chi deve di salvare salvare dei genitori senza avvisare il malato della propria patologia. A me sembra una cosa, cioè è inconsistente questa, allora, cosa. Allora ti dico una cosa e ti faccio una domanda, perché poi sennò, cioè nel senso, questo è un film che raccontarlo un po' ma perché no, il film inizia, questo io ti ho raccontato i primi minuti del film. In realtà il trailer è molto chiaro da sto punto di vista, quindi non ti ho raccontato e niente. E se basa sull'equivoco poi, perché tu in realtà non è che capisci bene chi è malato, chi deve prendere decisione su cosa, sì, no? Però il film che il si film poi l'equivoco, esatto, alla prima scena. Vabbè, però questo è il bello del trailer, è stato anche intelligente da questo punto di vista, perché tu non riesci a capire se genitori o so i figli, chi è che parla, cioè, quindi insomma è fatto un po' così. Però la domanda che ti faccio è, al di là di come poi, se diciamo dipana ovviamente la storia, secondo te è stato un buon film? Cioè è stato scritto e lavorato bene? Allora, il film è una produzione abbastanza piccolina. E vabbè, okay, questo non è, però si capisce, che... siccome è tutto incentrato sul dialogo, sul contrasto, esatto, sul dover prendere la decisione, okay, perché poi alla fine le scene che si alternano sono pochissime. Ho i dialoghi dei due figli a pranzo con i due genitori, ai quali non dicono niente, però ovviamente ci sono delle tensioni che salgono, i genitori non sanno perché. O i dialoghi tra i due fratelli in un altro luogo che devono prendere sta ferale decisione. Okay, okay. Quindi, ed essendo tutto derivato da una sceneggiatura teatrale, i dialoghi hanno un certo peso. Gli attori, allora, i due protagonisti sono lei e avete detto, non la riconosciamo. Imma Tatarani, è un'attrice. Come si chiama il film? Vado a cercare. Dall'alto di una fredda torre. Lui è Edoardo Pesce, che è un caratterista romano. Che poi il titolo è la metafora del film, poi alla fine. Sì. Ah, questo poi è vero. Lei è Vanessa Scalera, ecco, nel frattempo mi è tornato in mente. Gli attori, diciamo, tanto anche lei è bravi. Molto brava, l'ho vista in Diamanti. Allora, sì. È brava. Qual è il punto? Anche lì, siccome sono appunto dialoghi al centro di ogni... Lei, per quanto cerca in qualche modo di dissimularlo, ha un accento delle sue origini, no? Perché comunque sia, lei è di... non mi ricordo se Molisana, non mi ricordo... comunque, sente comunque ha un accento che forte. Lei cerca di mascherare, perché il film è ambientato a Gubbio, praticamente, in Umbria. E lei non accetta un accento umbro. Edoardo Pesce invece, che è più classico attore con la cadenza molto romana, che fa sempre i ruoli un po' da bulletto, un po' da coatto, ha fatto anche non so se l'avete vista la produzione Sky di quel tizio che c'ha le stigmate e faceva, risuscitava la gente. Padre mio. No, quasi. Madonna, oggi coi titoli vabbè. Comunque no. Beh, comunque lui è comunque un attore romano, quindi fa parte pure dell'orchestraccia? Non è lui che aveva fatto il video di Lella? No, non te lo so dire. Vabbè, non si stiamo a perdere. Comunque, vabbè, al di là di questo, cioè, appunto, cioè, per quanto dissimulano il più possibile gli accenti, per quanto siano comunque... Vabbè, questo attori, è un problema tipico del cinema italiano, cioè, diciamo, comunque. Il film si deve sostenere solo su quello, perché poi veramente non c'ha altro, quindi ti dico... Beh, ma quello può essere una buona cosa. Poteva funzionare di più. Però ti ripeto, quello che ti lascia tutto il tempo sgomento, al di là del fatto che ovviamente serve questo escamotage narrativo per creare il conflitto, no? Però è completamente inconsistente, se ci pensi, perché tu, medico, deontologicamente non ti puoi permettere di non palesare la diagnosi al diretto interessato, che è una persona assolutamente in grado di intendere e volere. Sono d'accordo. Purtroppo lo succede spesso. E ancora in più, lavandosene un po' le mani, dire no, dovete decidere voi chi volete salvare tra vostro padre e vostra madre. Allora, uno, intanto informi il diretto interessato e magari decidono tra loro. Due, se proprio non informi il diretto interessato, tu che sei il medico e sei l'unico che può analizzare dei parametri in maniera scientifica e oggettiva, decidi te. No, i figli vabbè, in nessun caso, dove in quanto donatore non hai nessun titolo per decidere chi devi salvare. Ma in realtà dovrebbero decidere tutti. Però comunque, al di là della questione etica, comunque il film... E ti ripeto, a me ha pesato, ma ha frustrato questo aspetto. Se no, però secondo me fa parte della provocazione del film, magari. Certo, è chiaro che se ti immedesimi e ti dovessi trovare nella situazione di dover decidere se salvare uno tra tuo padre e tua madre, sarebbe chiaramente una cosa drammatica. Ma è là il gioco, cioè, lo so, però io, ti ripeto, ti frustra. La scriverei una storia così, nel senso, poi bisogna vedere come la sviluppi. Gli do un 6 perché mi è piaciuta appunto questa idea, però si doveva trovare un appiglio di trama, soprattutto non devi scomodare una patologia così rara che già è statisticamente impossibile che ce l'abbiano due persone non dello stesso sangue, perché tu dici, sai, se c'erano due fratelli può succedere perché geneticamente hanno lo stesso corredo genetico, ma se ce l'hanno un marito e una moglie, certo, vabbè. E già quello rende tutto troppo poco credibile. Se per assurdo fossero stati due bambini, magari gemelli, che avevano questa malattia, e i genitori dovevano decidere. Ok, quello funzionava. Vabbè, funzionava. È chiaro che è un pretesto narrativo anche assurdo. Ok, ma invece di farlo con i genitori, sì, farlo con i figli, che è drammaticissimo, però può ancora funzionare. Ancora peggio. Sì, però infatti il trailer questa cosa non la fa capire bene, cioè non si capisce se chi è il malato. Comunque vabbè. Mister Zero ci dice come si chiama il film e su quale piattaforma si può vedere. Il film si chiama Dall'alto di una fredda torre. Okay. Abbiamo detto tre volte. E vabbè. E il film si trova, credo, su Sky, perché io. Now. Sì, c'è forse su Sky Now. Sì, Now. Now. Okay. Now. Okay, okay, no, la trovi. Now. Okay. Pure se te butti al fiume. E va bene, quindi sei c'è sta, sei c'è sta. Sì, adesso sì. Il mio film è un film meraviglioso. Che potrebbe sembrare un po' noioso, perché in realtà parte da un presupposto classico che è di tantissimi film di fantascienza, no? Quello che è il disastro nel viaggio spaziale. Però non è un film horror o un film action, o un film sci-fi, così come lo interpretiamo. È un film normale. Anzi, normale, è un film forse anche autoriale da un certo punto di vista, che ha un background che è drammatico già nel suo presupposto. Perché praticamente, tanto parliamo, il film si chiama Aniara, e Aniara è il nome di questa nave spaziale che porta i coloni terrestri dalla Terra a Marte in pochissimo tempo. Quindi questa è una nave che viaggia con un motore particolare, diciamo in 2-3 settimane porta la gente su Marte. E la cosa assurda è che la nave ricorda un po' l'astronave di Wall-E, no? Cioè che praticamente è una nave da crociera, fondamentalmente ci sono tutti i servizi, ci sono i ristoranti, ci sono tutte le cose, insomma, e la gente vive, insomma, in questa specie di villaggio turistico dal tempo che ci vuole dalla Terra a Marte, perché la Terra ovviamente ha la sua solita catastrofe ambientale, quindi la gente deve cominciare a distribuirsi tra la Terra e Marte. E durante il viaggio, questo succede all'inizio, c'è un incidente stupido, cioè tipo, che ne so, un cacciavite spaziale che buca lo scafo della nave, colpisce il reattore, insomma, di questa nave, che incendia praticamente tutto il reparto. Io sono il reparto motori, ma devono completamente espellere tutto il propellente nucleare. E quindi la nave poi fondamentalmente ha tutta l'energia delle batterie e tutto quanto, ma non c'ha più nessun tipo di forza propulsiva, quindi la nave è alla deriva fondamentalmente. E questa cosa all'inizio viene un po' mascherata, no? È tutto a posto, tutto sotto controllo, però siccome che all'interno ovviamente di questa nave, oltre a popolazione normale, ci sono navigatori, scienziati, astronomi e astrofisici, c'è una di queste che si embriaca più spesso e volentieri, perché ha capito che praticamente non c'è nessuna speranza per sta nave, in quanto la nave sta andando alla deriva e non incontrerà nessun corpo celeste che loro possano utilizzare con, che ne so, con i motori di manovra per, che ne so, usare una fionda gravitazionale e poter ritornare o su Marte o sulla Terra, indipendentemente dal fatto se ci vuole un anno, due anni o tre anni. E quindi si incomincia a spargere questa informazione, fino a che ovviamente il capitano è costretto, insomma, a divulgare a tutta la nave il fatto che è così, cioè, nel senso. Scusa, che... ma una domanda, questi vivono di scorte o potrebbero comunque sopravvivere a un tempo indeterminato alla deriva? Allora, loro hanno delle scorte e con il quale fanno funzionare tutti i ristoranti e tutto quanto per il tempo che era comunque previsto, però poi hanno tutto un sistema di produzione di cibo tramite alghe, quindi cioè, l'astronave di per sé era comunque progettata per essere autosufficiente. Okay. Okay, fa anche viaggi generazionali, che poi è più o meno quello che succede, insomma. Però praticamente ovviamente loro non hanno più modo di tornare indietro, fino a che dopo anni, perché insomma questi qua alla fine si costruiscono un po' la vita là dentro, anche se poi piano piano la nave comincia a perdere efficienza in determinati settori e quindi ovviamente, insomma, comincia a arrivare il degrado poi piano piano. poi c'è tutto l'aspetto di un certo tipo di tecnologia che non affronto, perché è interessante come aspetto narrativo pure il fatto che loro hanno questo sistema ricreativo che poi si rompe e via dicendo. E, si chiama Dildo? No, l'accertuto sono proprio i cazzi, ti dico solo questo. Dildo? Madonna mia. No. Vedi, mentre io vado al lavorato che ti guardi. Lo so, ma non è che. E gli piacciono pure. Non è che mi guardi i film dei cazzi. Io non me la porta a riguardare il cinema. Non me l'aspettavo neanche. Però è invece è figo perché praticamente. Posso dire una cosa? I cazzi sono più pericolosi quando non li vedi che quando li vedi. Esatto, bravo, esatto. Quando li vedi, li tieni sotto controllo. Stanno là. Ti tieni a distanza. Comunque, praticamente a un certo punto loro intercettano tramite le loro rivelazioni astronomiche il fatto che c'è una sonda che sta arrivando verso di loro, e loro sono convinti che sia una sonda che la Terra gli ha mandato col carburante per poter poi ritornare indietro, anche se sono già andati a cazzi imperi e via dicendo. Poi si rendono conto che loro sta sonda non riescono ad aprirla. Il film non identifica che cos'era sta sonda, questo grosso siluro che loro poi riescono a rallentare e a imbarcare, però insomma lì rimane un po' il mistero. Comunque, fondamentalmente il film è qua, cioè nel senso è tutto basato sul rapporto psicologico, sociologico e interpersonale di tutte le persone che stanno all'interno, quindi è un film che c'ha uno spessore e che lì per lì non ti aspetti. Più va avanti ovviamente sta cosa, questa nave alla deriva, e più ovviamente la società regredisce fino a crearsi delle sette religiose strane, delle cose un po' folli, compresa sta cosa che ci stanno questi qua che si incontrano tutti nudi, tutti pitturati, colorati, c'è sto tizio col cazzo giallo rosso, tra l'altro io vorrei dire questa cosa, noi avevamo il cazzo grosso, mezzo giallo e mezzo rosso, giallo e mezzo rosso, esatto, che è un film assolutamente drammatico. Io lo posso anche dire come finisce, perché tanto secondo me il film non lo vedrete mai, cioè lo so che non lo vedrete mai. Sta su Prime? Sta su Prime, sì. Ho visto il titolo da qualche parte. Sì, Aviara. Aviaria no, quella Aviaria no. È bruttissima. Aniara. Aviaria. Scusate. Aniara. E praticamente il film è diviso a capitoli. Ogni capitolo c'ha un titolo. Non ho capitolo. Non, l'ultimo capitolo si chiama Il sarcofago. Comunque stiamo soffrendo più sentendo te raccontarci il film che vabbè, Marco, però fatemi guardi. Finire, dai, su, abbiamo capito. È finito. E questa è la vendetta per prima. Stacce. Capito, cioè. Comunque, l'ultimo capitolo si chiama Il sarcofago. Direi che è emblematico. Ed no? È la cosa che mi ha angosciato più di tutti, perché c'è questa scena di questa nave stellare dopo 36.000 anni che arriva praticamente in orbita su un pianeta ed è tutto spento. Vezzo. Tutti estinti praticamente, cioè chissà da quanto tempo. Speriamo fosse la Terra. Quindi è un sarcofago fondamentalmente. No, ma non il pianeta. È la nave che è tutta spenta. Ah, ok, cioè arriva perché la nave spenta perché la deriva prima. E la nave è il sarcofago perché contiene dentro tutta quella piccola civiltà che si era costruita praticamente dentro. Insomma, io devo dire, è un film assurdo, però interessante. Ma sul piano tecnico come è realizzato? Perché non ho capito il livello della produzione. È molto, allora, no, è molto easy, cioè non ci sono effetti speciali particolari. In realtà è tutto in un'ambientazione chiusa, okay, fondamentalmente. Beh, sì. Ogni tanto ci sono gli stacchi di sta nave spaziale da di fuori, ma che c'ho? Cioè, nel senso, oggi è roba che fai in 5 minuti, poi è una astronave enorme, gigantesca. Vabbè, okay. Quindi niente di trascendentale. Però fondamentalmente la metà delle cose secondo me l'hanno girate dentro la nave da crociera per davvero. Nel senso, vabbè, sì, per quindi c'è sta, c'è la piscina, ci sono i ristoranti, ci sono insomma le varie situazioni. Bello, a me tutto sommato, allora non posso dire che è un film bello, perché secondo me non è riuscito come che riusciva, però mi ha dato veramente quel senso d'angoscia che secondo me era lo scopo del film. Quindi gli do un 6, perché poi la realizzazione è un po' così, però un 6. Beh, guarda, però mi fa venire in mente che è più angosciante ancora quell'altro film che... produzione completamente diversa, però un po' riprende il concetto, quello con Chris Pratt in cui Jennifer quella di Lopez. No, vabbè. Sì, sì, siamo capiti, quella di Hunger Games, che praticamente è questa nave Lawrence. Che Jennifer Lawrence che fa questo viaggio nello spazio, questo viaggio plurigenerazionale nello spazio, in cui però sono tutti ibernati, che potrebbe sembrare Alien, no? Ah, quello che loro si sveglia. Però a un certo punto lui, per un guasto suo sarcofago, io l'ho visto quel film, a me è piaciuto quel film. Sì, però anche lì, se ci pensi, lui intanto ha passato tempo e tempo e tempo da solo con tutti gli altri, e poi ha condannato pure lei. Poi ha detto, sai che c'è, sveglio la più buona della nave, esatto, perché almeno proprio... all'inizio un po' di diffidenza, poi si innamorano, poi lei si rende conto che in realtà lui arbitrariamente l'ha svegliata, condannandola a vivere per sempre assieme a lui, cioè non per sempre, il resto della vita in due, per sempre, resto... perché poi alla fine, cioè, ma a quel punto io dico, vaffanculo, sveglia tutti. E non mi sa, forse non c'erano. Non poteva svegliarli. Forse non c'erano le risorse, chi lo sa. Boh, non mi ricordo. Se svegliava tutti, morivano tutti. Ma torniamo da Michela. Io? Perché un altro film, devo dire. Cioè, tre dovevano essere film. Tre troppi, secondo me. Uno e mezzo. Vabbè, io ti dico un altro che poi. Aspetta, però non mi ricordo. Di quello di Albanese. Ti è piaciuto quello Albanese? Quello di Antonio Albanese. Andiamo a quel paese. Molto carino. Aspetta, andiamo a quel paese, si chiama il film, è vero, c'ha ragione. E vedi, stavo cercando il titolo, ma finalmente. Quante ne sai? Che è un film molto, molto, molto carino. Con Antonio Albanese e con Virginia Raffaele, che racconta praticamente la storia di questo maestro sottopagato e plurisfruttato e pluristressato. Comunque, che decide di andare. Scusate, però lui che ha la sindrome di Tourette, dategli qualcosa. Sì. Perché... Guarda, sono le pasticche. Proprio nelle cuffie lo sento. Quasi fermo. Quasi. È quel quasi che fa la differenza. Di questo, diciamo, insisto, così, perfezione. Questo maestro che si sente in qualche modo ultra stressato dalla vita di Roma, e decide di accettare un ruolo in un paesino in Abruzzo, perché comunque pensa che la vita lì è molto più semplice e molto più diciamo così gratificante da un certo punto di vista. Si ritrova comunque ad affrontare diverse difficoltà inizialmente, perché comunque abbiamo visto, l'abruzzesi non so, persone gentili, sono brutte persone. Non so ospitare, diciamo, salutiamo tutti gli amici abruzzesi. Ciao amici abruzzesi. Amici abruzzesi, vi vogliamo bene, però insomma la gentilezza non è il vostro forte. E quindi lui si ritrova comunque a fronteggiare questa situazione. La situazione è complicata anche all'interno della scuola, che per un motivo o per un altro rischia comunque la chiusura, e si ritrova prima ad essere molto lontano da certi, insomma, ad essere visto come l'uomo che viene dalla città, quindi quello che comunque poi si stuferà e ci abbandonerà, come tutti quelli che sono venuti fino prima di lui, e poi si ritrova comunque a combattere insieme ai ragazzi del paese, alle persone che vivono nel paese e alla direttrice. Sembra che sia la preside, non mi ricordo, comunque a una delle insegnanti e alla preside, per tenere in piedi questa scuola che è praticamente piccolissima, ci avrà tipo 10 bambini. E alla fine, insomma, non la racconto la fine, perché alla fine ce l'ha già fatta. Ci sono i cazzi. No. Neanche uno. E allora è inutile guardarlo. Infatti, sì. Però è un film molto carino. Veramente molto carino. E devo dire che Antonio Albanese è molto bravo. E anche Virginia Raffaele, secondo me, molto bravo. Dagli un voto. Beh, allora, io devo dire che a me Albanese non mi piace, ma riconosco che è bravo. No, veramente. È bravo. Secondo me soprattutto quando fa le parti che escono un po' da quel personaggio deficiente, esatto, che faceva prima. Esatto. Insomma. Lui come attore è bravo. Sì, anche nei ruoli drammatici spesso, sì, e volentieri. A volte, da, sì. Qual è il film di Soldini che ha fatto tanti anni fa? Però vabbè, sì. Albanese tutto appese. Però anche Virginia Raffaele, ragazzi, è bravissima, perché sì, al di là veramente brava. Lei poi vabbè, poi c'è chi ha vissuto la sua vita più o meno tra Roma e l'Abruzzo, la prende anche quella cadenza, però lei è proprio geniale, cioè, mo non so se ha anche delle origini abruzzesi, però c'ha quando imposta il dialetto, salutiamo chi non ha, io lo dico sempre, ragazzi, c'è chi ha del sangue abruzzese nel DNA, chi mente, ma questo a livello mondiale, non solo in Italia. non c'è un posto che non sia stato colonizzato dagli abruzzesi, quindi vabbè. E mo comunque sì, confermo, molto carino, l'ho visto anch'io ed è uno di quelli che avevo messo nella lista di quelli che avevo visto. Quindi tu che voto gli hai dato? 7 e mezzo, onesto. Sempre un po' larghi con i voti. Vabbè, poi tra l'altro albanese c'era pure quell'altro film che hai visto, con che... un gatto in tangenziale. Esatto. Ah, okay. Ah, io pure... invece ho visto 100 domeniche, non l'avevo messo pure quello è un gatto in tangenziale. Devo dire che è carino. Il primo o il secondo? Il secondo Ritorno a Coccia de Morto, ma saranno simili. Non l'ho morto. Visto. Comunque è geniale, devo dire geniale anche i nomi dei però quartieri. Però non è del 2024, quindi non so se se ne può parlare. No, vabbè, però se ne può, Cortellesi che è bravissima. Sì, ma tu l'hai visto nel ma 2024. Ma soprattutto io ho adorato Le Gemelle. Ah sì sì sì sì sì, è vero, è vero, cioè, quelle che rubavano gemelle, che non è, loro è che rubavano, poi non erano neanche attrici professioniste, nel senso che venivano dal quartiere, le hanno un po' lanciate così. No, io l'ho viste su Instagram che comunque facevano un po' più sì, o meno lo stesso verso, che sì, erano quasi nel loro di loro stessi. Esatto, sì, anche secondo me. Marco, ma io poi ho un altro titolo da blastare amaramente. No, allora, io invece ho visto per la prima volta nel 2024 un film che era uscito dalle sale da un po', cioè non era più trasmesso dalle sale da un po' di tempo, però ho deciso di recuperarlo. Totò a colori? No, Nosferatu. Ah, beh, che non è Nosferatu uscito l'altro ieri? No, è Nosferatu di... ah, quello di Herzog? No, no, è quello di Murnau. Murnau. Friedrich Murnau. Con l'occasione, visto che abbiamo registrato una puntata di Ho Visto Cose, vi ricordate quel bel programma quando facevamo tanto tempo fa e che adesso non facciamo più? Ma mica è colpa nostra. Non è colpa nostra, però noi ci proviamo. Ma tanto vale per quasi tutti i programmi di esatto. Runtime al momento. Ma piano piano riparte ma tutto. Piano piano riparte tutto, come si dice. Beh, abbiamo visto questo bellissimo film. Aveva qualche problema col sonoro, però in realtà. Nel senso che non c'era. Sentivamo basso, molto basso. Però bello, insomma. Tanto era muto il film. Ah sì? Ma dai! Ma dai. E praticamente c'era questo bel personaggio vecchio, pieno di peli che uscivano tutte, da tutte le parti strane del corpo, che nel film viene chiamato uno sfigato che praticamente è questo vampiro. Vabbè, raga, un po' la storia di Nosferatu la conoscete tutti quanti. Prendete Dracula, fate una versione senza licenza, senza diritti, e avete Nosferatu. Eccolo. Spostate l'Inghilterra in Germania, Germania, esatto. Sempre perché bisogna cambiare nomi e stati. E via, cioè, è un po' come i giapponesi che fanno diventare Pinocchio giapponese. Cioè, più o meno la stessa cosa. E come si chiama? Perocchio. E quindi abbiamo visto questo film che poi è un caposaldo dell'espressionismo germanico prussiano, si può dire prussiano? Eh sì, tutto, no? Sì. Ci può stare, eh sì. Esatto. Anche se c'è molti riferimenti alla Prussia. Devo dire che io ho trovato più interessante il gabinetto del dottor Caligari rispetto a Nosferatu. Eh, non so, qualcuno si rivolterà nella tomba, ma io ti appoggio. Ecco, che è un film molto moderno quel film, cioè, pur essendo dei 100 anni è molto moderno, non ho sperato quell'altro, però ecco, vi consiglio. Pizzi, ho scelto questo film che tu adesso così nei tag metterai uno sferato che ovviamente tira tanto sto periodo, esatto, capito? Quindi mi raccomando, voto qui gli dovremmo dare un 9-10, però addirittura no, dovremmo, ma no, però, 10 dai, per me 10 non dà niente, no, cioè. Però allora, io gli do un 8, però perché comunque secondo me c'è di meglio, quindi do un 8. Attenzione, il 10 significa che non c'è altro sopra, quindi una volta che dai un 10, cioè Margherita Vicario da una parte e, ah certo, fuori concorso, sì, e com'era Silvio Berlusconi su TikTok, su com'era? TikTok perfetto, abbiamo queste due cose. Intanto io però volevo dire una cosa in chat a Mr. Zero, che dice così supponente spavaldo: io di sicuro non ho sangue abruzzese. Se Jimmy, ma tanto che alla fine ce l'abbiamo, ma guarda, gli abruzzesi hanno colonizzato mezzo Sud America, anche tre quarti, ti assicuro che se vai a vedere noi sicuro a Monterodondo, Monterodondo, ma voglia, tra una cosa e un'altra. Walter, allora io volevo blastare un film che ho guardato senza illusioni, ma che non credevo potesse essere così veramente brutto, che è Flaminia. Ma alla fine a me però mi è stato simpatico. No, perché è un denigrare in maniera stupida, creando una macchietta, una persona in difficoltà. Ma lei c'ha la sorella, cioè lei ha raccontato la storia della sorella. Allora, vuole essere biografico. Allora, prima fate capire però, e poi fate il dibattito. Adesso ci arrivo. La resa dei personaggi a schermo è ridicola. La storia è, la protagonista è Michela Giraud. Sì. Che fa passatemi il termine, la fighetta di Roma Nord, dove fighetta è, si intende anche perché se la sente tanto, yes, di essere quella figa del film, con la vita perfettina tutta fatta di lussi di Roma Nord, di Ponte Milvio, col ragazzo che va al canottieri, che se sta per sposare, tutto perfetto, tutto figo. Lei c'ha questo personaggio, quest'aura della figa della situazione, che se vuole anche bene a Michela Giraud, però già non è credibile in questo. Fino a quando non ripioma nella sua vita la sorella disabile mentale, che normalmente stava invece in una clinica, per una serie di motivi è costretta a tornare a casa per alcune settimane, e questo porta a tutta una serie di casini nella vita di lei. E potrebbe essere una trama sostenibile, se non fosse che, come hanno rappresentato i personaggi, perché comunque vuole essere una commedia molto leggera, il personaggio della sorella fa alla fine della macchietta, cioè come avresti descritto un essere inferiore, stupidamente inferiore, 40-50 anni fa, come il negretto dei cartoni animati degli anni 30, cioè proprio stereotipale, stupido, cioè tutti i personaggi sono superficiali, esatto, ma la resa che hanno dato al personaggio della sorella, anche a livello attoriale, è gestito malissimo. Come ti posso dire, più che altro la resa di tutti gli attori e proprio del film è abbastanza di qualità infima. Non è quello, secondo me è un po' principiantesca, nel senso che forse quello più bravo nei film è Andrea Bulgadori, che insomma Porello. Ringraziamo per essere stato presente, perché ha fatto questo omaggio, l'ha pagata cara, e forse in realtà era anche anche il Sor Colica, perché sì, c'era Claudio Colica che faceva il medico. Però secondo me in realtà, cioè, è proprio perché lei ha voluto fare un film come regista non avendo gli strumenti, quindi c'aveva una storia da raccontare. C'hai delle camere. Però quando non c'hai diciamo ancora l'esperienza, sì, ermanico, esatto, comunque sia, di solito o ti aiuta il cast di attori se è capace, e qui non erano capaci, aiuta l'aiuto regista, che di fatto fa il ghost director, ma pure la sceneggiatura vabbè, era abbastanza basica. Sì, la sceneggiatura era assolutamente ordinaria, però si poteva rendere meno grottesco, non involontariamente grottesco, e quello è il problema. Cioè, alla fine la disabilità viene gestita malissimo, lei viene sminuita. Michela Giraud non... Vabbè, capito, il film è il suo. Allora, il problema di Michela Giraud è che finché fa il personaggio cinico, appunto, per uno sketch di 5 minuti, mi piace tantissimo. Poi lei c'ha un grosso problema: se non mette una bestemmia ogni tre parole, proprio è castrata, non ce la fa. Però la protagonista... Bestemmie? Sì, sì, no, la Giraud quando è, gli parte la ciabatta ogni tre secondi. No, però bestemmie. Ah, vabbè, però proprio magari, va, però diciamo, volgarità. Estreme volgarità, sì. E, no, bestemmie no, perché sennò te ripudiano dal mondo dello spettacolo, però insomma, concettualmente... Secondo me non c'è sta proprio... Io l'ho visto in un paio di film che sganciavano delle serene bestemmie. Boh, vabbè, poi dopo allora magari ci illumini. C'è un film del figlio, oddio, Figlio d'arte, che è uscito l'anno scorso, due bestemmie nel 2023, gli erano permesse. Comunque vabbè, diciamo che a sto film gli do tranquillamente un 4, perché proprio secondo me finisce per fare un danno in quello in cui voleva invece lanciare un messaggio di inclusività, un messaggio positivo, e quindi vabbè, l'ho visto non pensando di vedere chissà quale capolavoro, ma così brutto non me lo sarei mai aspettato. Diciamo, non è il Rain Man italiano, ecco. No, decisamente no. Ok, basta. Voto? 4. Michela? Perché io l'ho visto. Beh, sì, visto che. Ma secondo me è proprio 5,5, 6 meno. Perché, dai, perché tu sei sempre un po' più demarcata. Ma 6 meno, cioè, considerando che abbiamo dato. Vabbè, perché c'era Andrea Bulgadori. Quindi vabbè, sì, però, Michela, non si possono utilizzare questi benchmark affettivi. Uno deve essere obiettivo. Che c'entra? gli se vuole tanto bene a Purgatori, manca tanto, però voglio dire, non era Fascisti su Marte, era un film di merda. Però insomma, dai. Allora io invece vi parlo degli ultimi due film, ve li dico insieme perché sarò veramente breve in tutte e due. Il primo è Deus la sfera oscura, che è praticamente l'umanità sempre sul collasso climatico, trova queste sfere di origine aliena che insomma tramite il gioco del labirinto c'è un pannello dove fai il gioco del labirinto e a seconda di come risolvi il labirinto tu esegui dei comandi e queste sfere sono in grado di fare qualsiasi cosa, compreso terraformare un pianeta. Poi queste sfere gli dicono vai su questo pianeta e terraformalo perché è la speranza per l'Italia, non è per l'Italia, per l'umanità. L'Italia non ha speranza. Loro vanno su questo pianeta e praticamente dentro la sfera c'era un alieno cattivo e quindi è alien dei voracci, insomma, quindi è un film de merda. Alien senza budget. È Alien dei voracci, proprio perché ne abbiamo visti tanti dei film di gente che parte po' spazio e alla fine c'è il mostro che si rimagna tutti. Ecco, più o meno, insomma. Alla fine è questo, insomma. E tra l'altro non solo vi dico usando Creatures the Past come benchmark, no, vabbè, meglio no, o peggio? No, vabbè, cioè almeno questo è un film, per quanto sia, cioè, voglio dire, nel senso. Allora, io a questo film gli do 4, però a Creators per affetto gli do 3, 2 e mezzo, cioè comunque. Che perfetto, quale affetto? Affetto perché comunque alla fine è un film che ci ha dato tante soddisfazioni. Cioè, è tornato nella nostra vita più esatto, più volte. L'abbiamo atteso per tanto tempo, quindi alla fine anche. E comunque vabbè, 4 e vi dico pure che finisce, morono tutti. Giusto per. Però c'è una scena bellissima alla fine dove lui olograficamente riesce a parlare con la donna che ama sulla Terra e loro si vedono come se fossero nello stesso ambiente e a un certo punto lui gli dice è troppo tardi ma ho capito una cosa, ce l'hai carta e penna? Lei dice sì e prende carta e penna. Ora ti dico come salvare la situazione, devi mettere l'ibrido nelle piante e poi lui muore. Quindi sta carta è appena, che cazzo serve? Pensavi gli doveva dare una formula matematica incredibile, invece. Cioè, secondo me gli è servito. Cioè, lui gli ha detto segnalo con carta e penna perché sapeva che lei se lo sarebbe dimenticata dopo due giorni. Ma secondo me lei ci ha fatti i cazzetti con cose. Cioè, ha fatto il coniglietto. Con carta e penna. Con carta e penna, sì. E il secondo film invece è The Batman. The Batman. Che Marco ci ha tenuto tantissimo a farmi vedere. Sapendo, insomma, che io sono un po' rotto il cazzo dei film. Però Batman è sempre un personaggio che sono sempre combattuto perché tutto sommato ne subisco il fascino, subisco il carisma. Però purtroppo, ragazzi, io forse non l'ho capito, forse non l'ho apprezzato. Sebbene esteticamente e tecnicamente è un film super curato, super figo, però a me quel Batman lì mi ha rotto il cazzo dal primo momento che ho visto il primo fotogramma fino all'ultimo, perché il Batman emo non si può sentire, non si può sentire, anche non se è Batman, poi è un Bruce film Wayne. È Bruce Wayne, sì, hai ragione, il Bruce Wayne emo non si può sentire, anche se poi dopo è un film investigativo, cioè, però allora mi aspettavo più spessore. Il film secondo me è una sorta di lancio promozionale per la serie The Penguin, che è forse l'unica cosa positiva che è uscita da... Ma guarda, Simone, secondo me è che non ti aspettavi di vedere un film noir, perché da Batman magari t'aspetti... Batman è noir, cioè, però, nel senso, sì, però no, Batman ha un'ambientazione molto dark, ma non è un noir, perché tendenzialmente è uno che prende e risolve le cose a sganassoni. Invece in questo caso è investigazione pura. No, ma io ci sono, cioè, il gioco per esempio quello di Telltale che ho giocato, che è una bellissima reinterpretazione della storia di Batman, è prevalentemente investigativo. Io ce lo vedo Batman come investigatore, perché Batman è prevalentemente anche quello. È proprio il personaggio che non mi è piaciuto, è insopportabile, lo prenderesti a gomitate sul naso dall'inizio alla fine. Ma è cioè, quello, è perché, ho capito, ma non deve essere quello, a me mi piace quello, ecco, è il secondo anno, lui è ancora depressissimo. Allora, cioè, parti da un presupposto, anche se non lo hanno gestito come un origin story, quindi non è un come è nato il personaggio e lo danno per scontato, nel film ti fanno capire comunque una cosa, che Bruce Wayne ha deciso di diventare Batman da pochissimo, appunto da un anno, due anni, quindi cioè Hai visto quante volte casca come uno scemo, se fa male, se tume, fa, se rovina, se perché butta qualcosa con la tela alare, si va a sbattere addosso a cioè ponte, perché cioè, comunque è ancora ad uno stato embrionale. Sì, poi ma tra l'altro io se tu ci hai fatto caso apprezzo e capisco l'intenzione, ed è un giovane Bruce Wayne all'inizio oltretutto. Lui scrive perché c'è il progetto Gotham in cui lui scritti Gotham Project, in cui lui praticamente scrive tutto quello che gli succede, e la voce narrante dell'inizio è praticamente lui che scrive sul diario, e se vedi come scrive le cose è proprio da quasi un malato di mente, sì, perché cioè non è preciso, è proprio calcato, cancellato, cioè è proprio vabbè, ma se sa Bruce Wayne è un malato di mente, non è che cioè, posso dire che capisco l'intenzione e ho apprezzato anche alcune sottigliezze, ma a me il film mi è piaciuto, cioè, beh, ma il mondo è bello perché vario, cioè, sa che per non me ti sia un piaciuto film che se merita 5, perché con tutta la mostruosità anche sul estetica voto, insomma, mi permetto di obiettare, nel senso se permetti di obiettare è il mio voto, mica che poi però è un po' esagerato, esageratamente basso secondo me, nel senso che quindi tu dai il tuo voto, no che il mio voto no, è vabbè, basso, però cioè, il mio voto è questo, cioè. ci dovrebbe in generale, no, come con tutta la buona volontà 9-10 per Gloria è troppo, 5,5 per cioè ci sono comunque dei parametri che dovrebbero essere oggettivi, 5 scusami, sì. Ci dovrebbero essere dei parametri che, di oggettività, che lo collocano comunque in una certa zona di classifica, poi ci puoi mettere del tuo più o meno sicuramente, però 5 mi sembra un po' ingeneroso. Per esempio, quando la prossima settimana parleremo di The Penguin o The Penguin, giustamente ti dico che quella è una serie che se lo becca il 7,5. Non lo so perché non l'ho vista. Ma non vuol dire un cazzo, Marco. Cioè, però a me mi è piaciuta la serie. Non vuol dire un cazzo, ti sto dicendo. No, è che a me mi è piaciuta la serie. Per me è un capolavoro quella serie. Cioè, ed è estratta dallo stesso film. Ma io ti sto avvalorando la cosa. Ma vaffanculo! Se sta dicendo Colin Farrell ci ha vinto anche il Golden Globe. Insomma, è una cazzo la serie. Va bene, esatto. Non te frega cazzo, però. Ma frega cazzo, ma lui c'è anche in un film che si salva solo perché c'è sta lui. Mo si salva perché c'è sta. Sì, per me sì, quindi per me è così. E tant'è che ho visto, ho iniziato a vedere The Penguin perché tu lo volevi vedere, e a me, per colpa della pessima pubblicità che gli ha fatto il film, oggettivamente non me ne fregava un cazzo però di vederlo. In un poi film invece che l'ho visto e mi è piaciuto. In un film che altro non è che una caccia a un serial killer, no? Dire che il film si salva perché c'è Colin Farrell che fa Penguin, che è un no, personaggio assolutamente collaterale. Voglio dire, lascia un po' il tempo che trova, non è determinante nell'economia di quel film, no, c'è infatti. Perché te lo devono introdurre per il dopo, esatto. Ma non salva il film, perché se lo togli dal film il film no, è uguale, non lo salva il film, nel senso non... cioè, è l'unica cosa veramente rilevante che ho trovato, perché è comunque un trucco in interpretazione di un personaggio che poi ho ritrovato nella serie e che grazie a Dio ha funzionato, cioè tutto là. Poi oh ragazzi, no è che... per carità. Però insomma Batman abbiamo visto cose di gran lunga mio, okay? Batman. Battiamo. Bene, quindi 5 e 4 gli ultimi due film, no, quindi un bel 9. Sì, esatto. Vabbè, però cioè, se tu prendi Deus la sfera oscura e Batman, li metti insieme e viene un bel film, insomma. Che comunque diventa meno... Batman la sfera oscura, che Batman quando ha mangiato tanto, o Deus Batman anche. È comunque meno bello di Gloria, perché ricordiamo che è il film che ha preso più bello 10. Della storia del mondo. Esatto. Va bene, io direi che con i film ci siamo. Vogliamo fare qualche battuta su quello che succede nel mondo e poi ce ne andiamo. Beh, allora io diciamo che dovremmo. Tanto, gli Stati Uniti dichiarano guerra alla Canada, ancora, prima. No, alla Groenlandia. Bisogna andare, bisogna essere precisi. Vai, ricostruisci. Innanzitutto, non abbiamo ancora un nuovo ufficiale presidente, perché dovrà essere insediato. Si insedia. Questo forse si fa incoronare, ma non siamo ancora sicuri. E già prima di entrare ufficialmente, quindi di mettere le sue belle manine sui pulsanti della Casa Bianca, ha già praticamente fatto incazzare mezzo mondo. Sì, vabbè, no. Con non è una due novità. O tre tweet così, no? Cioè, ma peggio del, cioè, ha fatto più queste settimane che nei 4 anni precedenti. Ma cioè, speriamo che si rincoglionisce una volta per tutte, arriva l'ictus, perché. Ma guarda, che se arriva l'ictus potrebbe essere preso come una mossa per la secessione totale. Allora, se a Trump gli viene l'ictus, dichiarano guerra alla Cina. Esatto, lo dico subito, perché lui c'è fa. Ah, sono i cinesi. Comunque, lui veramente un come si può chiamare? Un impeto di autocelebrazione. Non so. Comunque, si è visto già imperatore di mezzo mondo. Però, cominciando, visto che comunque è umile, cominciando dal Nord America. Quindi, ha postato sulla sua piattaforma Truth. La verità, una bella immagine del Nord America, tutta con la bandiera americana, perché la sua idea, lo sta dicendo da diversi giorni, è quello di annettere, usando la forza economica, che non si sa bene cosa significa, la Groenlandia e anche il Canada. Ah no, aspetta, lui ha detto una cosa un po' diversa. Lui ha detto che non esclude la possibilità di annettere anche militarmente la Groenlandia e lo stretto di Panama, perché gli servono per gli equilibri geopolitici. Al Canada ha proposto di diventare 51esimo stato degli Stati Uniti, in maniera un po' più soft. E gli hanno detto: saremmo disposti a scendere armati per difendere la nostra nazione. Il re di Danimarca più o meno ha detto la stessa cosa. Ricordati che la Danimarca è un paese europeo, quindi se metti un piedino lì fa incazzare tutti. E il Porto Rico. Panama, c'è cioè pure Porto Rico, mi sembra che si sono incazzati pure loro, non so perché. Comunque Panama ha detto questi stanno incazzando, perché Porto Rico, gli unici che non si incazzano mai sono gli italiani, no, vanno a leccar culo, esatto. E praticamente sì, anche lo stretto di Panama, che è una cosa, una stronzatina che muove soltanto qualche decina di milioni ci di dollari, ci passano tutto il traffico navale del genere, e sì, ha detto perché dovrebbero essere controllato dai panamezzi, ma ci stiamo noi in America, lo facciamo noi, comunque controlliamo tutto il mondo, insomma. Quindi ha scatenato un putiferio già tipo in 4 no, anche di più, diciamo, stati e democrazie estere, cioè complimenti, cioè io ripeto, non è ancora stato ufficialmente insignito delle cariche di presidente. Io quindi, allora, io mi sono fatto una promessa. Abbiamo già vissuto 4 anni di Trump, ne siamo usciti bene o male, non lo sappiamo, forse da questi 4 anni usciremo peggio, ma non mi voglio incazzare. Io adesso tutte le puttanate, per ora. Allora, tutte le puttanate che farà Trump, io ci devo ridere sopra. Il punto è che è un mio impegno. I primi 4 anni di Trump sono stati mitigati, può sembrare assurdo, dal Covid. Non ci fosse stato il Covid, chissà che cazzo avrebbe combinato. Quindi o dobbiamo sperare in una seconda pandemia. Ci stanno lavorando i cinesi. Sì, infatti. Ci stanno lavorando, però non è che possiamo sempre pensare che ci salvino loro. Insomma, cioè questo non lo speriamo. E quindi non so, io adesso voglio tutte le puttanate che farà, io ci devo ridere sopra, è una mia per sopravvivenza. Ma è un mio diritto, diritto, ma per sopravvivenza, guarda, non posso incazzarmi pensando a questo che fa le puttanate. Bene. Michela, tu cosa ne pensi di Donald Trump? La situazione in generale, non so. Io sono devastata, anche perché comunque in realtà mi guardo intorno, vedo gente che si sente Donald Trump anche intorno a noi. Anche Donna Trump. Trump anche intorno a noi. E quindi questo mi fa rabbrividire sempre di più. Bene. Sono molto preoccupata. Comunque, ragazzi, prima di salutarvi, volevo sapere se c'è un film, tornando avanti con i film, perché me l'ho dimenticato, che vi aspettate molto nel 2025. Io vorrei vedere Nosferatu di nuovo. Confronto. Però devi solo andare a vederlo, è già uscito. Tocca anche sbrigarsi, insomma. Sì, beh, oddio, non è detto, è uscito adesso. Quindi. Vabbè, io ci vengo volentieri. E poi non so qualche altro film che deve uscire nel 2025. Basta. Walter? Ah, io invece Nosferatu l'ho già visto, quindi vi consiglio di orientarvi ad altro. E beh, mi aspetto tantissimo Section 31. Ah vabbè, sì, però quello non esce al cinema. Ah, deve uscire al cinema proprio? Non lo so cosa esce quest'anno al cinema, non mi viene in mente niente. È una domanda a bruciapelo, non lo so. Non lo so. Eva Perez. E chi sarà il culo Eva Perez? Emilia Perez. Chi fa tombola? Emilia Perez. Sono curioso, però non è che Emilia Perez. Non so se lo vedrò al cinema o lo vedrò quando capita. Io non lo so, perché non so che cosa esce, però mi ricordo che c'era qualcosa e mi aveva colpito. Quindi vedi, fai la domanda, ma alla fine non sei manco te. Esatto. Ho sentito parlare di The Brutalist, però non so che cos'è, di che cosa parlo. C'è una pista di figo. Basta, ciao Marco. Ma non ce ne frega proprio un cazzo, guardi. Comunque, io ringrazio e saluto Puccio, Carmine, Console. Grazie, Puccio. Grazie Puccio. Ha messo una foto su Facebook e sta mangiando una torta con sopra uno sbradilento di cioccolato in quel di Torino. Non quindi... Ma non sta a Milano. Non sta a Milano. E se sono spostati, sono spostati. Ha messo chi sta a Torino. Salutiamo Walter Sbano. Ciao ragazzi, ciao, ci sentiamo se tutto va bene lunedì con le orazioni. Benissimo. E Marco Gualdi. Ciao. Vi consiglio, oltre ho visto cose, perché noi facciamo una puntata ogni tot. Sì. Quando uscirà il tot? Una volta le facevate, una volta. No, sono proprio ogni tot. Mo è proprio e poi sì. C'è Friendship Drive. Bellissimo podcast. Che devi dire. Però vi deve fregare, perché è sennò... un po' di nicchia. Boh, un pochino di nicchia. Però è solo se vi piace Elite Dangerous come videogioco, allora potete ascoltarlo. Sennò potete ascoltarlo uguale, ma. E non capirci un cazzo. Capite un cazzo, insomma, anche perché parlano in gergo. Il gatto sta di fuori al buio. Adesso lo salutiamo. Mica De Paola. Al buio per gatto e visione naturale. Ciao a tutti, ci vediamo mercoledì prossimo, ma ci vediamo sicuramente, ci sentiamo prima. Anche prima. Ringraziamo tutti quelli che sono stati presenti nella chat, uno solo, Mr. Zero. Vabbè, dai, ma recupereranno ovviamente. E questo è diventato un programma ad persona. Ma no, ma secondo me si devono riabituare che riesce Popcorn, non erano più abituati. Per me ci vediamo invece venerdì mattina con il Grande Reset alle ore 7, live sempre su runtimeradio.it. Grazie a tutti e ciao. Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.